Sono sempre più frequenti e intense le iniziative spirituali, culturali, artistiche per questo centenario di San Pio X. Ricordiamo l'appuntamento con la musica sabato 5 aprile nel Duomo di Castelfranco Veneto, l'esecuzione dello Stabat Mater per soli, coro e pianoforte di Licinio Refice con Elisabetta Battaglia soprano, Li Yanfeng tenore, il coro filarmonico Veneto, al pianoforte Giovanni Valle, direttore Valentino Miserax Grau. Gli appuntamenti con i pellegrinaggi che si sono conclusi con questa domenica 30 marzo riprenderanno poi nel periodo successivo, ma ricordiamo che c'è sempre la possibilità individuale di fare il pellegrinaggio nei luoghi di San Pio X, quindi le chiese di Riese, Tombolo, Salzano e la cattedrale di Treviso, potendo ricevere anche, come ha stabilito Papa Francesco, l'indulgenza plenaria con le consuete condizioni: la confessione, la comunione sacramentale, una preghiera per il Papa, partecipando a una funzione o pregando per un certo tempo in questi luoghi e poi concludendo con un Padre Nostro, un Credo, una preghiera alla Madonna e a San Pio X. Stessa indulgenza plenaria sarà concessa per la celebrazione del prossimo 23 agosto, non il 20, che sarebbe il giorno dell'anniversario, ma il 23, quando sarà presente il cardinale segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin per la celebrazione appunto al santuario delle Cendrole. Lì ci sarà anche la benedizione papale con annessa indulgenza plenaria, sempre alle stesse consuete condizioni. C'è un appuntamento anche musicale per ragazzi, il premio San Pio X a Vedelago il 6 aprile alle 15.30 al Cinema Teatro Margherita Sanson, che era la madre di Giuseppe Melchiorre Sarto. I cori, formati da ragazzi che svolgono servizio liturgico nelle parrocchie della zona castellana, si riuniscono per questa 28esima edizione del Festival dei Ragazzi. Il tema di quest'anno, San Pio X e l'Eucaristia, fu proprio lui a stabilire che la prima comunione fosse data anche in età più bassa, quindi ai bambini, e che ci fosse un'adeguata preparazione. A proposito di musica, e San Pio X si intendeva anche di questo, c'è un appuntamento all'abbazia di San Giorgio Maggiore a Venezia sabato 5 aprile alle 17, la quinta conferenza del ciclo promosso da un apposito comitato veneziano. L'appuntamento è con Monsignor Giuseppe Liberto, maestro emerito della Cappella Pontificia Sistina, e con Père Jacques-Marie Guilmard, monaco benedettino dell'abbazia di Saint-Pierre di Solesmes. Interverrà anche la dottoressa Paola Talamini, organista titolare della Basilica della Madonna della Salute a Venezia, che ha curato il volume Giuseppe Sarto, Canti per la Settimana Santa, e ormai alla Settimana Santa manca poco. Il momento musicale e poi la Santa Messa solenne sarà con l'Officium Consort, coro maschile, all'organo Paola Talamini, all'abbazia di San Giorgio Maggiore a Venezia, sabato pomeriggio alle 17. Ma c'è un altro appuntamento da ricordare che è legato alla cultura e ai vari interessi che aveva Pio X. Fino al 13 aprile, da ieri, Villa Egger, sede del municipio di Riese Pio X, ospita la mostra La luce e il tempo, San Pio X costruttore di meridiane. È un aspetto forse poco conosciuto del nostro Papa, una passione giovanile per la gnomonica, così si chiama l'arte di costruire le meridiane. Lui stesso ne realizzò alcune sui muri. La mostra è allestita appunto fino al 13 aprile con alcune meridiane insolite, alcuni strumenti astronomici del passato e pannelli che illustrano anche le meridiane realizzate proprio da San Pio X nella sua età giovanile. Una passione che davvero lo caratterizza tra le tante cose che mettiamo in evidenza con questo centenario. Ci sono anche degli appuntamenti, delle conferenze venerdì 4 aprile alle 20:30 col professor Sergio Chiariotto sul tempo delle meridiane, poi, tempo permettendo, alle 22 le stelle ci guardano, suggestiva serata osservativa al telescopio a cura di Luigi Marcon. L'11 aprile, sempre in municipio Ariese, la conferenza con la professoressa Elsa Stocco, misurare il tempo con il sole, Giuseppe Sarto, costruttore di meridiane, e a seguire ancora le stelle ci guardano, serata osservativa anche in questo caso, anche se ci sarà la luna crescente nei giorni successivi. La mostra è ad ingresso libero, è aperta il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12:30 su prenotazione, dalle 10 alle 20 il sabato e la domenica. Per informazioni, prenotazioni e visite guidate 335-778-4330, ripeto 335-778-4330, ma potete trovare i riferimenti dettagliati sul sito ufficiale www.centenariopox.it. Andiamo in un altro luogo di San Pio X, Salzano. Ricordiamo che fino al 4 maggio si possono consegnare i lavori per il concorso di pittura, un dipinto ispirato a San Pio X. L'opera vincitrice del concorso sarà collocata nella chiesa di Salzano. Qui le informazioni sono sul sito www.museosanpiox.it. E poi ci sono i pellegrinaggi, c'è quello della diocesi di Treviso dall'8 al 10 settembre con l'udienza con Papa Francesco, il 15 giugno ancora a Salzano nella corte della Filanda un concerto, e poi ancora il 4 agosto, lo segnaliamo, un'altra tradizione importante legata al nostro santo, il pellegrinaggio a Cima Grappa in ricordo dell'ascesa che Giuseppe Sarto compì nel 1901 quando era patriarca a Venezia. E poi ci saranno anche eventi come gli annulli speciali delle Poste Italiane, presentazioni di libri, sono tantissimi gli appuntamenti che andranno ad intensificarsi appunto nelle prossime settimane, che noi puntualmente vi ricorderemo ogni settimana.